Yeah. Facciamo 9, se no decidiamo, dai, ci guardiamo io e te. Cercavo la mia sigaretta. Cercavo una sigaretta. Thank you. io non capisco stai i giri, i due giri. Non so che era uno che era cinco più cinque quando nella banda. Che faccio già lungo, we'll be right back. entra lui con Mandolino. Dopo che entra lui con Mandolino, ci si combatte il Porrega.